Venerdì 16 dicembre alla biblioteca Amilcar Cabral si terrà l'evento Conversazioni su Gloria Anzaldúa e io sono qui per parlarne con Paola Satta, sociologa argentina e dottoranda in studi di genere, che tra l'altro sarà anche presente appunto all'incontro di domani. Quindi ciao Paola e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao a tutti. Allora, dicevamo appunto domani questo evento Conversazioni su Gloria Anzaldúa e ti volevo chiedere innanzitutto, Paola, se ti va di farci una panoramica, ecco, su chi è Gloria e per chi non la conoscesse, appunto. Gloria Anzaldúa si definiva come scrittrice, come poeta, come teorica femminista queer chicana e texana, e pure come patlache, che vuol dire in nahuatl, che è una lengua che viene dalle tradizioni azteca lesbica. Per capire chi era Gloria bisogna anche capire quella parola che ho detto, che è chicana, perché è dove anche si trova tutta la sua teoria, il suo pensiero e anche tutto il potere del concetto fondamentale che è il concetto di frontiera in Anzaldúa. E quindi la chicana sono persone, sono nate negli Stati Uniti, però hanno una discendenza di origini messicani. In questo caso è importante anche capire che sono parti di quello che sarebbe il sud ovest degli Stati Uniti, quindi Texas, Arizona, Nuovo Messico e anche California, e quindi è molto particolare perché loro non sono stati migranti, sono nate là, però nel 1848 c'è stata una guerra dove gli Stati Uniti ha colonizzato questo territorio che era messicano, quindi è una frontiera che è stata spostata, e quindi da là parte anche la teorizzazione di Anzaldúa. Sono questi due libri che presentiamo anche, per il quale ci troviamo domani, La frontiera, che è il primo libro più fondamentale della sua teorizzazione, che infatti è un libro del 1987, però è in Italia pubblicato nell'anno 2000 e adesso ripubblicato in questo anno a cura di Paola Zaccaria, e questa nuova pubblicazione, che è Luce nell'oscuro, pubblicata dall'editoriale Meltemi, che è la sua ultima opera dove raccoglie tutto il suo pensiero, che è stata infatti una opera postuma, quindi è stata pubblicata negli Stati Uniti nel 2015 e tradotta anche in Italia a cura del gruppo Ippolita in questo anno. Tu tra l'altro hai scritto la prefazione a questo libro e ti volevo chiedere un po' come ti eri approcciata a questo lavoro, com'è stato? Racconto anche nella prefazione, che è stato un grandissimo regalo. Io dico che questo libro è un tesoro perché nel mio caso io sono argentina, sono attivista femminista, sono anche sociologa, e questo libro collega anche il mio essere migrante, collega anche il mio attivismo spirituale, un concetto fondamentale di questo libro, perché io sono anche da molti anni una appassionata di molte teorie, ma anche pratiche collegate alle culture indigene, alle terapie alternative, potremmo dire qua, alle questioni più collegate al corpo. Questo libro parla anche di questo concetto dell'attivismo spirituale, che parte dal corpo, che collega l'emozione del corpo nell'attivismo, ma anche nella politica. E per me è stato un regalo essere invitata a fare la prefazione, perché collegava anche tutte le mie esperienze che a volte sono disintegrate, e che è parte di questo, su quello che Anzaldúa parla nel libro, no? Parla di unire sia a livello del corpo individuale che a livello del corpo collettivo e anche politico, unire tutte le parti di noi, e anche unire tutte le parti di noi vuol dire attraversare questi spazi di frontiera, no? Che a volte vuol dire del linguaggio, a volte vuol dire un momento di crisi, no? Uno spazio di mezzo, che è quello che è il concetto fondamentale in questo nuovo libro, che si chiama El Nepantla, che è lo spazio tra i mondi. È molto bello leggere Anzaldúa, perché io credo che qualsiasi persona si può riconoscere anche in questo concetto. Non vuol dire necessariamente vivere in uno spazio di frontiera, ma vuol dire pensare a tutti questi momenti dove due mondi o più mondi sono incrociati nelle nostre esperienze e anche, come ho detto, nella nostra sensibilità, ma anche nel nostro attivismo, nella nostra incessante lotta per un mondo più giusto. Volevo aggiungere anche che questo evento organizzato dalla Libreria delle Donne di Bologna si farà anche in uno spazio molto, molto interessante anche della città, la Biblioteca Amilcar Cabral. Saremo in quattro a presentare questo libro, ci sarà Elisabetta Careri, che è autrice dell'introduzione del libro e anche una studiosa della teoria e la letteratura cicana, attivista anche delle cattive maestre a Roma. E ci sarà Laura Scamorcini, che ha tradotto il libro, che anche farà un contributo molto interessante, cioè la traduzione di un libro che è scritto in Spanglish nell'originale, e anche Valeria Ribeiro Corosas, che è una docente di antropologia culturale, che ci farà anche pensare sulla questione della decolonialità, che anche questo libro parla molto ed è molto importante quando pensiamo alle nostre lotte, il nostro attivismo per la decolonizzazione.